Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte 17. La macchina si ferma in un cortile buio, circondato da vecchie case scrostate, per metà disabitate, viste le poche luci accese alle finestre. Con me c'è China e Ortica e Nocciola. Subito dopo arriva l'auto di Scilla, con Zucco Togno, Valeriana e Gelso. Il cerchio di luce della torcia elettrica corre veloce su ciuffi d'erba, pezzi di legno, cocci di bottiglia, tegole rotte. Poi saliamo su una ripida scala di legno con la ringhiera che dondola, i gradini che scricchiolano. Scilla infila la chiave nella serratura che cigola. Un colpo con la spalla e entriamo dentro. C'è un tavolo di chiuso. Scilla accende una lampadina che pende dal soffitto, da un filo sfilacciato. Qualche vecchio mobile, macchie d'umidità sulle pareti e un manifesto di Humphrey Bogart sopra un letto con una grande spalliera metallica. Ci sediamo intorno al tavolo, sulle sedie impagliate. Cotogno e Valeriana si siedono sul letto, non ci sono sedie per tutti, e Scilla prende da una credenza sbilenca una bottiglia di whisky e la mette sul tavolo, con alcuni bicchieri. «Sapete lo scopo di questa riunione?» dice Ortica. «Si tratta di valutare le diverse proposte di organizzazione maturate dentro il movimento. C'è una componente che pratica azioni d'avanguardia, con l'uso delle armi, nell'illusione che di per sé determinano la crescita di tutto il movimento. Ora, noi non siamo contrari di principio a queste pratiche, perché sappiamo tutti benissimo che non si può affermare di essere coerentemente rivoluzionari senza porsi il problema dell'esercizio della forza, della necessità di costruire un contropotere pari e anzi più violento a quello che quotidianamente viene esercitato dallo Stato. Ma la nostra critica a questi compagni è sul fatto che questa costruzione e esercizio del contropotere deve vivere tutto all'interno del movimento. Ormai si tratta di una coscienza acquisita a livello di massa, basta vedere le cronache, l'uso della forza si va diffondendo in maniera accelerata dentro tutte le occasioni di lotta. L'illegalità di massa è oggi una pratica abituale. Si tratta allora di discutere se riteniamo possibile un ulteriore salto in avanti di massa di tutto il movimento, il cui contenuto non può che essere quello dell'organizzazione della forza o il problema della lotta armata, se si preferisce. Cotogno si alza dal letto, scivolante, prende la bottiglia dal tavolo e versa il whisky nei bicchieri. Anche Scilla si è alzato, è andato a rovistare in una vecchia cassapanca in un angolo della stanza. Adesso è inutile che sto lì a raccontare per filo e per segno come si è svolta. Tutto quello che è successo in quella riunione, che è andata avanti fino all'alba e che è stata anche l'ultima, perché poi ci siamo divisi e poi non ci siamo più visti. È scoppiato un casino. Quella volta lì è scoppiata una lite che quasi finiva a botte. Cotogno a un certo punto si è messo a gridare. C'è chi adesso non vuole vedere che adesso siamo oggettivamente in una situazione di guerra. Non volere vedere questo è puro opportunismo di chi non vuole assumersi e fino in fondo le sue responsabilità di rivoluzionario. Per cui chi non vuole vedere che adesso siamo oggettivamente in una situazione di guerra va combattuto e emarginato. «Ma quale guerra?» ha gridato Ortica. «La guerra che dici tu, che pensi tu, è la guerra che vogliono loro. E non ha niente a che fare, ma proprio niente, con tutto quello che noi abbiamo fatto e con tutto quello che abbiamo pensato noi, fino adesso. Tu pensi Tu sei convinto che l'obiettivo sia la conquista del potere così com'è, e quindi per te adesso tutto il problema diventa solo quello di vincere o di perdere. Scilla è tornato al tavolo e ci ha appoggiato sopra due pistole, una grande a tamburo e una più piccola. Che bisogno c'era di portare quale pistole? Ha detto China. Scilla l'ha guardata male. Una è una rivoltella, l'altra è una pistola, ha detto. L'ha presa in mano, maneggiandola con abilità e con disinvoltura. Ha premuto il calcio col pollice e ha estratto il caricatore, e poi ha estratto i proiettili e li ha disposti uno a uno in fila sul tavolo. Il whisky versato nei bicchieri restava sul tavolo, nessuno pensava a bere, mentre la tensione nella stanza saliva. Gli schieramenti erano chiari: da una parte Scilla, Cotogno, Valeriana, dall'altra Ortica, Nocciola, China e io. C'era solo Celso che non si capiva bene da che parte stava. Era nervosissimo, stava zitto, non faceva che pulirsi continuamente le lenti degli occhialini e mordersi le unghie. Noi sostenevamo che era una follia decidere in nome del movimento il salto nella clandestinità. Cancellare d'un colpo tutto quello che si era fatto fino a lì, mollare un movimento di lotta di migliaia di persone per fare la guerra in 20 o 30. È finita all'alba, con urla e insulti. Scilla continuava a smaneggiare le sue armi e quando a un certo punto Nocciola gli ha detto di smetterla, Scilla, velocissimo, ha impugnato la pistola a tamburo e gliel'ha puntata contro. Ti faccio un buco nella testa, gli ha detto. Ci siamo fermati tutti, è piombato il silenzio, si sentiva solo la goccia che cadeva nel lavandino. Tutti guardavano Scilla, col braccio teso, sospeso in aria, la pistola puntata contro Nocciola. Sapevamo tutti che era scarica, ma non era quello che importava. Ci siamo alzati e ce ne siamo andati via. Ortica, Nocciola, China, io e gli altri sono rimasti lì intorno al tavolo, anche Celso, immobile, con la testa bassa che si mangiava le unghie, fissando il tavolo dove c'erano le armi e i bicchieri di whisky che nessuno aveva bevuto. Dopo quella sera non li abbiamo più rivisti. Sicuramente si erano trasferiti in un'altra città, perché con quel salto che intendevano fare non potevano più stare lì, nella nostra zona, dove erano troppo conosciuti. Non ho più visto Valeriana, Cotogno e Scilla, mentre Celso mi capitava di incontrarlo per caso, ma tutti e due evitavamo di parlare di quello che era successo. Mi sembrava patetico Celso, lui era sempre stato un fricchettone, si vestiva serio adesso, con la giacca e la cravatta, i capelli tagliati corti e la montatura degli occhiali che da rotonda erano diventati quadrati. Poi non abbiamo visto più nemmeno lui, e così è finito il nostro gruppo di affinità e la loro è diventata un'altra storia che non spetta a me qui adesso di raccontare. Noi, dentro al collettivo, ci siamo messi a lavorare con più foga di prima. Era come se sentivamo dietro di noi qualcosa di distruttivo, di mostruoso, che ci inseguiva sempre più da vicino. E forse anche perché c'era anche il bisogno di dimostrare a noi stessi che la scelta che avevamo fatto di restare dentro il movimento era la scelta giusta. La repressione avanzava giorno dopo giorno, agli attentati seguivano arresti in massa indiscriminati, ma la repressione non erano soltanto carabinieri e polizia, era anche l'assedio della stampa e dell'informazione. Unito alla rottura della nostra rete di comunicazione, le difficoltà e spesso l'impossibilità che si aveva per fare uscire i nostri giornali per via degli arresti, dei sequestri, della mancanza di soldi. Si è messa in moto una martellante campagna di criminalizzazione di tutto il movimento. La mattina leggevo il giornale, un giornale qualsiasi, e non c'era nessuna differenza dall'ultimo scribacchino di cronaca fino all'illustre intellettuale, sociologo, filosofo, psicologo, storico, romanziere, eccetera. Tutti scrivevano che il movimento non era altro che un'agitazione convulsa di spostati avventuristi fascisti, schizofrenici, delinquenti che andavano spazzati via il più presto possibile per la salvezza della democrazia e della civile convivenza. C'era in noi un senso di impotenza di fronte a quella falsificazione sistematica di tutto, ma abbiamo creduto che non ci fosse altra scelta che accettare comunque la sfida sul terreno della comunicazione, e così abbiamo deciso di costruire una radio di movimento. Finanziariamente il problema lo abbiamo affrontato come tutte le altre volte. Tutti i compagni si sono dati da fare come meglio hanno potuto per trovare soldi, senza tanto andare per il sottile sui metodi, e così abbiamo cominciato a procurarci l'attrezzatura. Nocciola si è fatto prestare un furgone e con due compagni ha fatto il giro delle case in costruzione nella zona. E dai cantieri ha portato via lana di vetro, pannelli di polistirolo e altro materiale utile. Poi ci siamo procurati anche qualche centinaio di confezioni di cartone per l'imballaggio delle uova. E con tutta questa roba abbiamo cominciato a insonorizzare un locale della sede e poi l'abbiamo diviso in due, con dei pannelli di panforte e lastre di perspex. Da una parte la sala di registrazione, dall'altra parte la regia. Adesso dovevamo procurarci l'apparecchiatura, il mixer, l'amplificatore, le piastre di registrazione e i piatti stereo, ma il problema più grosso era quello di farsi largo nella giungla delle frequenze, farsi largo con i soldi o con la forza, perché o si avevano tanti soldi e allora si comprava un trasmettitore potente che copriva le altre radio, oppure si doveva usare il sistema di farsi largo a spintoni, facendo tacere le altre radio, e su questo non ci facevamo scrupoli, perché ci dicevamo: cosa cazzo trasmettono queste radio commerciali? Oltre alla pubblicità, trasmettono musica di merda, quiz di merda, notiziari di merda. E poi, di chi sono queste radio? Sono comunque radio nemiche che partecipano alla distruzione che il potere stava facendo della nostra comunicazione. Allora abbiamo cominciato la notte a fare visita alle antenne e ai trasmettitori delle radio commerciali della zona, che ci davano fastidio. E le sabotavamo, tiravamo giù i piccoli tralicci che reggevano le antenne e se potevamo portavamo via i trasmettitori o altre attrezzature che potevano servirci per la nostra radio. Era facile compiere queste azioni di esproprio e di sabotaggio perché in genere le apparecchiature si trovavano in zone piuttosto isolate. Le antenne erano piazzate su collinette o su tetti di edifici alti. Ci andavamo anche in 10 o 15 senza particolari precauzioni. C'erano dei gabbiotti di lamiera con dentro i trasmettitori e noi aprivamo la serratura e i lucchetti con un trapano a pila. E se non ci riuscivamo, versavamo un litro o due di benzina sotto la porta e ci buttavamo un cerino. E così, poco a poco, ci aprivamo uno spazio nella giungla delle frequenze, dove soltanto il più forte poteva sopravvivere. È arrivato il brigadiere, erano le 11 di sera, mi ha chiamato dallo spioncino con la solita voce, come se dovesse consegnarmi una cartolina illustrata. Invece era un fonogramma del ministero con l'ordine del mio trasferimento in un carcere speciale. Noi stavamo ridendo in cella, mezzi ubriachi. È piombato il silenzio, allora quel nome, carcere speciale, faceva paura. C'erano 6 ore ancora prima di arrivare alle 5 di domattina, l'ora della partenza, il tempo di preparare gli zaini e di fare e di ricevere dei regali, di restare svegli a parlare fino all'ultimo minuto. La notizia fa il giro delle celle, urlata dagli spioncini. I saluti mi vengono urlati perché mi imbarcano alle 5 e non ci si può neanche abbracciare un'ultima volta all'aria. Alle 5 puntuali le guardie arrivano a prelevarmi. Hanno fretta, sono assonnate e nervose, perché è l'ultima consegna prima di smontare di turno. Abbraccio i compagni della mia cella che mi aiutano a sistemare gli zaini sulle spalle. Allora ci vediamo fuori, si dice sempre così, quando si viene divisi. Dicono così anche quelli che hanno 3 ergastoli da fare. Molti compagni sono svegli. E faccio il giro delle blindate per stringere le mani, che sbucano dagli spioncini. Ci scambiamo le ultime parole, le ultime raccomandazioni. raccolgo i messaggi e i saluti da portare ai compagni che troverò laggiù. Poi il cancello della sezione si chiude dietro le mie spalle e seguo le guardie attraverso i corridoi silenziosi del carcere addormentato. All'ufficio matricola si fa tutta la trafila dei dati da trasmettere alla nuova destinazione. Questo è il momento più critico, perché se ti devono pestare lo fanno in quel momento. Lì è il momento della resa dei conti. Se hai avuto scazzi con qualche guardia, loro si passano la voce su quelli che vengono trasferiti. Ci sono guardie che, anche se la mattina del tuo trasferimento non sono di turno, sono capaci di alzarsi alle 5 giusto per il gusto di darti una passata di botte. Se hanno qualche conto da regolare con te, spesso aspettano il trasferimento per dartele, specialmente nei periodi in cui non hanno la forza di farlo immediatamente, a caldo, nelle celle. Ma sono fortunato perché si accontentano di qualche spinta provocatoria e di ricordarmi minacciosi qualche fatto. Sbrigate le faccende della matricola, comincia la perquisizione. Le guardie tirano fuori la roba dagli zaini e la controllano con molta più cura del solito. Poi io rimetto tutto a posto, con pazienza, ma poi arrivano i carabinieri che mi devono scortare e tutto comincia da capo. Altra perquisizione, ne fanno due quando sei in partenza, una alle guardie e l'altra ai carabinieri, che ti devono scortare perché non si fidano gli uni degli altri. Poi mi portano al furgone. Il furgone blindato è posteggiato 10 metri fuori dal cancello della matricola, che è al centro del carcere, ma i carabinieri mi mettono lo stesso ai ceppi, con la catena lunga, mi mettono in catena per i 10 metri che devo fare dal cancello al blindato. Fuori è ancora buio. Fa freddo e la nebbia è tanto spessa che i fari del blindato la colorano di giallo, senza riuscire a bucarla. Il capo scorta cammina davanti a me, reggendo la catena, a cui sono legati i miei ceppi. Gli altri mi camminano dietro. Avanziamo così in corteo verso il furgone, che aspetta avvolto nella nebbia gialla, col motore acceso e i portali aperti. Il blindato è la prima volta che lo vedo all'interno, è diviso in 3 scomparti, davanti la cabina di guida, in mezzo la celletta con 2 panche di ferro, disposta una di fronte all'altra, lungo le fiancate, dietro il posto della scorta, 6 uomini in tutto, mi mettono nella celletta, togliendomi la catena ma lasciandomi i ceppi stretti, ai polsi, poi chiudono con un lucchetto la grata. Il primo pezzo fino all'imbocco dell'autostrada lo fanno con un po' di preoccupazione. Fino a lì sono anche scortati da 2 volanti, una davanti e una dietro, con cui sono anche in contatto radio. Lepre, chiama canguro e queste cose lì. I carabinieri sono tesi, spengono la luce interna e aguzzano lo sguardo fuori, dagli oblò. Mi sembra assurdo e anche ridicolo tutto questo spiegamento di forze solo per me. Ma è il regolamento, questi osservano il regolamento e io da questa mattina sono uno specializzato, cioè per il regolamento sono uno particolarmente pericoloso. Cerco di sbirciare la strada dagli oblò, ma vedo solo scorci di palazzi, finestre e cornicioni di case. Mi alzo in piedi tra le 2 panche, ma non riesco a stare in equilibrio per via dei ceppi. Forse sull'autostrada dove non ci sono curve. Potrò guardare la strada davanti attraverso il vetro che dà sulla cabina di guida. Sull'autostrada i carabinieri si rilassano, si tolgono i cappelli, si allentano le cravatte, si sbottonano le giubbe, si mettono comodi. 3 si mettono a giocare a carte, giocano a 7 e mezzo e giocano a soldi, 10 lire la carta. Mettono le monete dentro i cappelli rovesciati, si divertono e si incazzano. Il capo scorta mantiene un contegno, si limita a sbirciare il gioco dei suoi ragazzi. Sono diversi dalle guardie, fanno un altro tipo di mestiere e questo cambia anche il tipo di rapporto che hanno con te. Loro trasportano semplicemente dei pacchi pericolosi. Fanno migliaia di chilometri su e giù per l'Italia, trasportando continuamente su e giù coi loro furgoni blindati i detenuti per i trasferimenti da un carcere all'altro. Il sentiero dei camosci, come noi chiamiamo questi itinerari dei trasferimenti. Ogni tanto uno di loro tira fuori dalla sua borsetta, tipo borsetta da tranviere, un panino fatto in caserma o fatto dalla moglie la sera prima. Grossi panini imbottiti di mortadella, di salame o di formaggio. Lo mangia piano, con la carta in cui era avvolto sulle ginocchia, per non correre il rischio di sporcarsi i pantaloni. E poi raccolgono le briciole con una paletta e uno scopino, che fanno parte della dotazione del mezzo blindato. Non ho più l'aria di pendolari che di guerrieri. Io un po' dormo, ho i ceppi che mi fanno male, e ho fame. Magari se chiedo di togliermeli, me li tolgono, ma non mi va di chiedergli qualcosa. Per loro io non esisto, sono solo un oggetto, un pacco da trasportare. Mi ignorano, ma ogni tanto mi controllano con una breve occhiata. Sono sballottato da tutte le parti, ho tutte le ossa che mi fanno male. Poco dopo il mio arrivo giù all'ospedale, mio padre era stato ricoverato all'ospedale e mi hanno fatto rifare lo stesso viaggio sul furgone blindato, all'incontrario, per andare a fare l'ultima visita a mio padre, che stava morendo di cancro. Ho rifatto le 10 ore filate di viaggio e quando siamo arrivati avevo le mani che non le sentivo più per i ceppi stretti intorno ai polsi. Siamo arrivati al mattino e dopo una breve sosta nella caserma dei carabinieri mi hanno portato all'ospedale. Mi hanno fatto scendere dal furgone nel cortile dell'ospedale e ho visto intorno una distesa di carabinieri e una distesa di poliziotti, tutti con i mitra e le pistole in mano. C'erano i cani, c'erano le volanti con le portiere aperte e le luci azzurre che lampeggiavano sui tetti. In una c'era Donnola, che dava ordini con la rice trasmittente. Mi hanno messo la catena ai ceppi e mi hanno tirato verso la grande porta a vetri nell'atrio dell'ospedale, pieno di gente in pigiama, di gente in camice bianco, con i grembiuli bianchi, le scarpe bianche, che si fermavano a guardare con la faccia stupita, sorpresa, a destra e a sinistra. Le file dei carabinieri facevano largo, spingevano contro le pareti la gente che non capiva bene che cosa stava succedendo. Ho sentito la catena che mi tirava i polsi, non vedevo dove andavamo, poi sono incespicato. La catena mi ha trattenuto, era il primo gradino dello scalone. Il corteo ha cominciato a salire, stringendosi a imbuto. Non vedevo i gradini davanti a me. Alzavo i piedi, ma continuavo a incespicare sugli spigoli dei gradini. Quelli intorno a me mi schiacciavano. La catena mi tirava finalmente, siamo arrivati sul pianerottolo. Improvvisamente sul pianerottolo ho visto tutto intorno, dietro i carabinieri che mi circondavano, le facce, tante facce, tutte le facce dei miei compagni che mi guardavano fisso, tutte le facce avevano la stessa espressione, gli occhi fissi non dicevano niente, non un cenno di saluto, un gesto. Mi guardavano tutti fisso e non avevano nessuna espressione. Poi uno strappo ai polsi e mi hanno tirato su per un'altra rampa di scale. Sono scivolato in avanti, stavo cadendo. Il carabiniere di fianco mi ha preso per il gomito, ma il mitra a tracolla gli è scivolato giù per il braccio e mi si è infilato tra le gambe. Quello davanti, senza guardare, ha dato un altro strappo alla catena e sono caduto in avanti, e il carabiniere che mi teneva è caduto sopra di me, e quelli che venivano dietro anche, tutti in un mucchio, sui gradini, con la catena attorcigliata intorno alle braccia e le gambe. Infine siamo arrivati in cima, siamo sbucati in una grande camerata, coi malati, nei letti, allineati lungo le pareti bianche. Il passo dei carabinieri che rimbombava, il tintinnare delle catene, gli ordini secchi del caposcorta, le proteste dei medici e dei parenti, dei malati per quella confusione. Ho visto venirmi incontro mia madre e mio fratello che piangevano. Mio padre era già morto. Quando poi, quando mi hanno riportato nel furgone blindato, il caposcorta ha tirato un sospiro di sollievo, chiudendo con un colpo secco il portale del blindato. E mentre aspettavamo, mentre il motore si scaldava, ho visto attraverso la grata che ha preso dalla borsetta una bottiglietta d'acqua ossigenata, ne ha versato un po' su un batuffolo di cotone e ha cominciato a fregarsi le dita e le mani, per bene, con l'acqua ossigenata. Se l'è fregata a lungo e poi siamo ripartiti per lo speciale. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.